Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Non ho mea culpa della Chiesa, ma di certo la missione di dover fare i conti con la realtà, che in Irlanda significa riconoscere che la maggioranza del paese vuole matrimoni tra persone dello stesso sesso. Ci dobbiamo fermare, guardare i fatti e metterci in ascolto dei giovani. Non si può negare l'evidenza. Il risultato è una rivoluzione sociale e che i diritti degli omosessuali vanno rispettati, ma senza cambiare la definizione di matrimonio. Per me una delle sfide principali è che un gran numero di giovani si siano allontanati dalla Chiesa. Dobbiamo cercare il dialogo. Erano le parole del vescovo di Dublino, che commentava e prendeva atto del risultato del referendum. Sebastiano Maffettone, professore di filosofia politica e direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della LUISS di Roma. Professore, sul domenicale del Sole 24 Ore è uscito un suo articolo dal titolo Tutti civilmente uniti. Tutti civilmente uniti, cioè? L'Irlanda ci ha dato uno shock col matrimonio e l'idea è quella di risolvere il problema, che è duplice. Da un lato ci sono le coppie omosessuali, con omosessuali io intendo tutta la galassia LGBT, che poi in Italia vuol dire più o meno lesbiche, gay, transessuali e bisessuali, e dall'altro ci sono i diritti delle persone che non amano particolarmente questo tipo di coppie, dico persone che hanno forti sentimenti religiosi, che sono attaccate alla tradizione. Come difendere entrambi? La mia proposta è: lasciamo per il momento da parte il matrimonio e diamo a tutti la possibilità di avere unioni civili. In questo modo si proteggono i diritti materiali di queste persone, senza che possono ereditare, possono restare nella casa del partner muore, possono fare, avere la pensione di reversibilità e entro certi limiti anche l'adozione, ma al tempo stesso si lascia alle persone religiose il matrimonio. Questo però, a mio avviso, vuol dire anche qualcosa di più. Io direi che tutti, anche gli eterosessuali, possono accedere all'unione civile, avere gli stessi diritti, e il matrimonio lo perseguirebbero solo le persone che hanno speciali interessi religiosi, rispetto per il sacro, voglia di celebrare in maniera diversa e più religiosa appunto il matrimonio. Ecco, questo in Italia però, perché sia accoglibile una proposta del genere, è necessario rivedere il concordato. Bisogna rivedere il concordato, soprattutto secondo me, e la mia idea è togliere di mezzo la parola matrimonio in prima istanza, perché crea divisione. Anche se in Irlanda è passato, secondo me crea dispiacere in alcune persone, e forse non vale la pena, diciamo così, forse vale la pena di fare a tutti l'unione civile in modo che siano protetti quelli che hanno bisogno urgente di una protezione, questo bisogna farlo subito, ma al tempo stesso non siano offesi quelli che credono nel sacramento. Ecco, professor Maffettone, un'ultima cosa: anche Berlusconi da Fazio mi sembra che si è dimostrato aperto, disponibile per il tema, quindi è una cosa che si può fare. Berlusconi è una persona abbastanza sveglia, l'ha capito, perché sta succedendo dappertutto. C'è una vecchia e piccola ma efficace regola di scienza politica che dice che quando c'è un gruppo piccolo che vuole molto una cosa e un gruppo grande che è abbastanza indifferente, vince il gruppo piccolo. Questo lo stanno capendo tutti i leader politici e prima o poi quindi arriverà pure il matrimonio gay. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Il 14,3% della ricchezza italiana è in mano all'1% della popolazione. Le diseguaglianze crescono nella maggior parte delle economie avanzate e il divario tra ricchi e poveri ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 30 anni, con il 10% della popolazione più ricco che guadagna quasi 10 volte di più del 10% più povero. È quanto è emerso dal rapporto OCSE sulle diseguaglianze. L'Italia è il paese OCSE con la minor percentuale di famiglie indebitate e resta lontano dai livelli delle altre due grandi economie dell'Eurozona, Francia e Germania. Però tra il 1995 e il 2013 più del 50% di tutti i posti di lavoro creati nei paesi dell'OCSE sono stati part-time, a tempo determinato o in proprio. Inoltre, secondo l'annuale rapporto Istat, in Italia sarebbero in aumento le donne che portano avanti da sole l'economia dell'intero nucleo familiare. Infatti sono oramai 2.428.000 i nuclei familiari in cui a lavorare è solo la donna. Ecco, abbiamo sentito i dati dell'OCSE. Chiara Saraceno, che è sociologa, autrice di importanti studi sulla famiglia, editorialista di Repubblica. Professoressa Saraceno, aumentano le diseguaglianze, ma oltre che per la crisi, è effetto anche della globalizzazione? In parte sì, perché siamo ormai in un'economia che deve competere sul mercato globale e certamente la nostra imprese che spesso si sono concentrate su occupazione a basso costo ed è poco qualificata non può più entrare in competizione con l'India, certo, o con la Cina. Ecco, all'origine della crisi c'è il modello di sviluppo fondato sul debito e sul consumo che non produce anticorpi rispetto a momenti difficili? In parte sì, però è anche vero che c'è stata anche una fortissima finanziarizzazione dell'economia che in qualche modo si è totalmente scollegata rispetto all'economia reale. Ecco. Però l'Italia, abbiamo sentito dai dati, stranamente sta un po' meglio, le famiglie sono meno indebitate, anche se la crisi, naturalmente lo sappiamo, è fortissima. Perché prevale una cultura solidarista ancora tutto sommato? Prevale una cultura molto risparmiosa, nonostante questa immagine dell'Italia che consuma di sopra delle proprie possibilità. Cioè abbiamo nel nostro DNA ancora la cultura contadina del risparmio. Sappiamo che, a differenza che in altri paesi, dobbiamo contare molto di più sulle risorse private, sulle risorse familiari, e molto meno sulla redistribuzione. L'Italia, per esempio, sostiene molto poco il costo dei figli, non ha una misura di reddito di ultima istanza per i più poveri, quindi è la solidarietà familiare che, certo, deve far fronte. Cioè sostanzialmente sono le pensioni che funzionano ancora da ammortizzatore sociale? In larga misura sì, noi sappiamo soprattutto nel Mezzogiorno ci sono intere famiglie composte da adulti in età da lavoro che sono in realtà sostenuti da una pensione. E quindi toccare le pensioni vuol dire distruggere l'equilibrio tra le generazioni, ma anche costruire una possibilità di nuovo futuro per i giovani. Siamo in mezzo a quella forbice. C'è una specie di contraddizione, perché è vero che le pensioni sono a carico delle generazioni più giovani in larga misura, quindi c'è un conflitto lì, però è anche vero che nella sfera privata spesso c'è ridistribuzione invece inversa da parte dei più vecchi verso i più giovani, quindi gli interessi privati e gli interessi collettivi non sempre coincidono. Però ritornando alla questione del fatto che noi siamo messi meglio dal punto di vista del risparmio, va anche aggiunto che invece siamo messi peggio dal punto di vista della povertà. Certo. L'Italia è uno dei paesi dell'OCSE in cui è più aumentata la povertà, in cui la povertà dei minori è molto alta ed è aumentata di più che in altri. È uno dei paesi in cui è molto diffusa, e lo ricorda anche l'OCSE, quella che si chiama in-work poverty, cioè la povertà nonostante il lavoro. Non solo perché sono lavori a basso reddito, ma a volte sarebbe anche un reddito adeguato, ma è l'unico per una famiglia di più componenti. Professoressa Saraceno, appunto, proprio l'Istat dice che le donne sono sempre più quelle che portano avanti la famiglia. In Italia ci sono 2,4 milioni di famiglie nelle quali le uniche a lavorare sono le donne. Sì, questo non vuol dire che le donne hanno molto aumentato la propria occupazione. No, l'Italia continua a essere uno dei paesi sviluppati con il più basso tasso di occupazione e anche di attività femminile. Però questo dato che sono questo dato è la spia del fatto che con la crisi si è persa più occupazione maschile che femminile. Erano assunte, sono occupate in settori che sono più femminili che maschili, mentre i posti di lavoro si sono persi di più nei posti maschili, quindi più manifatturiero, che è quello che tiene di più. A parte il fatto che dentro queste donne capofamiglia, dal punto di vista reddituale, ci sono molte famiglie di donne sole oppure di mamme sole, quindi in cui non c'è neanche l'uomo che potrebbe Senta, professoressa Saraceno, ancora una cosa, ma questa condizione ha un effetto ulteriore di disgregazione della famiglia? No, se ci fosse più occupazione femminile anche tra le donne con responsabilità familiari, le famiglie terrebbero di più dal punto di vista economico, diventerebbero meno povere. Certo, questo richiederebbe sia una ristrutturazione del nostro welfare con maggiori, lo ricorda anche l'OCSE peraltro, che non è certamente un organismo molto di sinistra o molto femminista, ma dice che occorrono più servizi, più strumenti di conciliazione lavoro-famiglia e, mi permetto di aggiungere, anche un po' più di collaborazione da parte degli uomini in famiglia. Un altro dato significativo è l'impoverimento dei giovani e dei giovanissimi. Raffaella Milano, direttore del programma Italia Europa di Save the Children. Ecco, quando si pensa a voi, ci vengono in mente soprattutto paesi poveri dell'Africa o dell'Asia. Da qualche anno però esiste una sezione italiana. Perché? Ma perché purtroppo anche nel nostro paese i bambini vivono moltissimi problemi nella loro crescita. Cioè esiste un allarme povertà per i bambini italiani? Assolutamente sì. In Italia oggi ci sono 1.400.000 bambini e adolescenti che sono in povertà assoluta, quindi senza il necessario per una vita quotidiana dignitosa. E la crisi in particolare in Italia ha colpito proprio i più piccoli rispetto a tutte le altre fasce d'età. Ecco, ma che cosa vi chiedono le famiglie? Chiedono innanzitutto di non dover, gli stessi bambini e i ragazzi, di non dover rinunciare ai propri sogni per il futuro. Teniamo conto che essere povero per un bambino ha un significato diverso che per un adulto, perché significa pregiudicare le proprie chance. In Italia abbiamo il 17% dei ragazzi che non va oltre il diploma di terza media. Questo significa dover mettere nel cassetto ogni aspirazione per il proprio futuro. Quindi l'educazione forse è l'area più colpita proprio dall'impoverimento, perché nelle zone più povere anche i servizi pubblici, i servizi educativi sono i più poveri. Ecco, quindi, ma qual è la vostra offerta? Noi quello che stiamo facendo in Italia insieme a tante altre organizzazioni è cercare di far vivere spazi educativi soprattutto nelle grandi periferie, che sono le nuove città dei bambini, dove si concentrano le nuove famiglie, dove luoghi educativi sono assolutamente scarsi. Ecco, quindi voi avete costruito una rete di cosiddetti punti luce da Catania, Bari, Napoli, Genova, Milano, Roma, Torino. Ma che cosa si fa esattamente in questi luoghi? Qual è l'obiettivo educativo? Ma sono luoghi belli innanzitutto, dove i bambini sono supportati non solo nello studio ma in tutte le loro possibilità e talenti, quindi sono luoghi dove si fa musica, dove si fa teatro, dove si impara l'amore per la lettura per esempio, e dove i bambini che sono nelle condizioni proprio più difficili, in povertà assoluta, vengono anche aiutati con una dote individuale. Cioè? Per esempio una bambina talentuosa che suona il violino, la famiglia ha perso il lavoro, parlo di casi concreti, certo, e quindi il corso di violino salta, è la prima cosa che salta. Ebbene, questa dote consente alla bambina di andare avanti e di, come dire, anche in una condizione di povertà familiare, di non rinunciare alle sue aspirazioni. Quindi delle doti educative, proprio per non sacrificare i talenti, alla povertà, i talenti. Più piccoli. Ecco, ma quanti sono i bambini in Italia che frequentano questi vostri luoghi? Ma per adesso sono alcune migliaia, adesso abbiamo aperto 12 punti luce, ne vogliamo arrivare ad aprirne 30, non risolveremo da soli il problema della povertà minorile, ma è anche un messaggio che cerchiamo e stiamo cercando di lanciare alle istituzioni, perché è possibile, è un dovere fare qualcosa, non si può aspettare la fine della crisi per intervenire. E la richiesta è in aumento? La richiesta purtroppo è in aumento perché la crisi colpisce ancora in maniera gravissima. Ecco, ci sono, signora, bambini che non hanno i libri di scuola per andare la mattina a scuola. Certo. Quindi parliamo di questo, ecco, ecco, un livello molto serio. Molto basso, sì. Ecco, dottoressa Milano, ha un indirizzo da dare, eventualmente qualche ascoltatore volesse intervenire e aiutare? Assolutamente sì, www.savethechildren.it. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666 l'SMS.

da parte di tanti c'è una sensibilità pronunciata, io credo, perché tutti si rendono conto che non è uno spettacolo, è qualcosa di vero, di profondo. Cioè è più difficile tenere gli occhi chiusi? È più difficile tenere gli occhi chiusi, senz'altro. Però è anche vero che finché non si supera la paura, cioè il povero in fondo è uno dal quale difendersi, sì, e se non si fa il passaggio, voglio dire, difendere i poveri o difendersi dai poveri, insomma sono i due campi nei quali uno deve scegliere dove stare. Per chiudere, padre Franco, intorno a lei sente la presenza della politica in questa, non dico in questa lotta, ma almeno in questo tentativo di condividere il dolore di chi soffre? Le istituzioni senz'altro sono vicine, cioè assistenti sociali, il pronto soccorso, il pronto intervento della strada quando ci sono casi limiti. Però la politica, per la verità, non la percepisco. Non so quale potrebbe essere il ponte che possa legare questi due aspetti. Mi sembra un po' lontano, un ma po' non, lontano. Perché, non perché è ostile, perché ancora no, non, ma c'è, non è, sì, consapevole. Insomma, comunque non è inserita nella problematica. Sì, da questo angolo visuale. 800 24 0024 numero verde 349 238 6666 l'SMS pubblicità. Mix 24. Finirà, me l'hai detto tu, ma non sei sincero. Oggi niente metro, Giovanni. Ah, piedi. Sì, sono uscito troppo presto. La stazione era ancora chiusa e quindi ho attraversato la città seguendo i parchi. E lì ho incontrato i lunatici, delusi perché era stata una notte senza luna. Ma ho ascoltato i graffi degli uccelli in cerca di scintille e un fuoco, cioè una bocca rovente di brace, l'ho trovata proprio lungo il cammino, perché nascosto dai cespugli c'era un forno, che neppure era improvvisato, era proprio saldato di mattoni e di terracotta. Intorno al fuoco, come in un rito, c'erano un uomo e una donna, e c'era l'odore di buono intorno, e poi il silenzio vestito dell'ultimo buio prima dell'alba. L'uomo guardava la donna e viceversa, e ho capito il senso. Una cosa è la parola, un'altra è lo sguardo, una cosa è il no, che però è sempre un sì, e la verità del profondo si legge negli occhi, come in quell'alchimia, senza metro oggi, di un profumo di buono, che però mi è sembrata una torta. Oggi ha finito col mangereccio. E resta accanto a me. Certo, la mattina bisogna andare con Pietrangelo. Certo. Scopre un metropolitana, scopre caldo. Un mondo, e tu? E tu? Senti qua. Dimmi un po'. Senti. C'è qualcuno. C'è la torta. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni. Tu non voleva dirlo, ma noi l'abbiamo beccato. Vabbè, non importa. Tanti vabbè, auguri, grazie, da tutti al nostro, grazie, numero uno, sì, vabbè, un, grazie, ragazzo, vabbè, Giovanni, vabbè, Minoli, vabbè, evviva, vabbè, ragazzi, che bellino che è quando è così. Andiamo avanti con le cose serie, questo per fortuna è un giorno che passa. Lo so. Pure questa per gli auguri, mica male, non male, senti, sì, che roba. Più seria. Allora, e oggi ci sono tutti dei giri di chitarra iniziali, si divertiranno i patiti dello strumento e del rock. Cosa succede? Facciamo un cosiddetto recap. Ricapitoliamo un po' le cose. Niente, tutto è niente, nel senso che mancano pochi giorni al voto. La tattica di Matteo Renzi a me pare abbastanza chiara, poi può darsi che io stia sbagliando. Cioè, ha detto 4-3, ma sa che 5-2 spera nel 6-1. È quasi impossibile che faccia centro in Veneto, così questo dicono un po' tutti. In Campania però il tanto criticato Vinny De Luca in realtà potrebbe finire per dargli la vittoria che gli consentirà di sorridere. Tu di pensi dire che... proprio, eh? Sì. Beh, insomma, se la giocano, con Caldoro se la giocano. Sì. Sono... è stato anche un buon governatore, sì, Caldoro, infatti, bisogna dirlo. Però la partita è molto, molto aperta, secondo me, diciamo, molto aperta. E sul fronte che dici? La Liguria è un mistero. Però il conformismo, il tradizionalismo dei liguri è molto grande. Io li conosco abbastanza bene, devo dire, ci ho lavorato un po' d'anni, quindi non lo so, vediamo. Difficile un change così vabbè, grosso. Vedremo. Grosso. Anche se il centrodestra già governò. E recupero Totti. Vediamo che cosa succede anche là. Sono le vere due partite, sì, diciamo, le due incognite di Renzi. Bisogna segnalare, secondo me, sul fronte governativo l'ascesa di Maria Elena Boschi, perché intervista al Corriere della Sera, premiazione agli internazionali di tennis, annuncio fatto da lei, quindi, della nuova legge sul conflitto di interessi. Mi pare abbastanza chiaro che dopo le elezioni regionali si apra un nuovo capitolo in cui il partito di Berlusconi, se dovesse uscirne ulteriormente indebolito e dimagrito sul fronte dei voti, avrà delle difficoltà poi a confrontarsi in Parlamento su questo punto e anche su altri, e la, certo, Boschi rappresenta, come dire, quella e poi, che visto che cominciano a uscire degli accordi tra la Boschi e la Carfagna, insomma, si sta muovendo sul fronte del glamour, si incontra mandassero a zappare tutte e due a zappare Women mia. Power no. Invece bisogna che ci siamo anche noi. C'è una canzone di Frank Sinatra mi pare che dice never trust a woman, non bisogna mai credere una donna, va bene, ok, cioè, come dire, noi maschietti un po' lo sappiamo, però quando sono di potere, quando sono di potere e determinate, come dicono a Roma, te rovinano. Salamino. Dopo aver vinto le elezioni in Inghilterra, ma chi le ha vinte? Le ha vinte Matteo Renzi, perché sì, ha fatto proprio il successo dei conservatori. Allora, dopo aver vinto le elezioni in Inghilterra, ieri ha vinto anche in Spagna. Addirittura. Sì, e se per questo anche in Polonia. In Spagna ha vinto perché, certo, in Spagna ha vinto perché lì ci sono i gruppettari di Podemos, tutti quelli che c'entra Renzi. E lui sì, c'entra, perché ha detto le elezioni hanno dimostrato quello che io vado dicendo da ma tempo, che? sì l'ha detto lui, ha vinto anche a Versailles, l'ho letto sul Corriere della Sera. E perché vuol dire che è vero? Se l'ha detto il Corriere è vero, vabbè, non esageriamo. Il Corriere della Sera oggi ha detto sarà lui, vero quello che riporta, ha vinto ma no. In Inghilterra prima, poi ha vinto in Spagna ieri, ha vinto anche in Polonia, perché ha vinto la destra tradizionalista anti-europea, lui? Sì, perché lui dice è c'è una ovunque spinta contro l'establishment, e quindi Matteo Renzi, volendo, muove guerra anche all'Europa. Lui la vuole costruire dal basso e senza avere soggezioni di tecnocrati o della Merkel di turno. Ma vince. Che? Sì, ho letto il Corriere. Ha un po' ragione. Ho letto il Corriere che ha sempre ragione. Io mi immagino Angela Merkel che proprio trema. Sì, trema. Vince sempre Renzi. Vince sempre. L'ho letto sul Corriere della Sera. Il Corriere della Sera di oggi dice che Renzi è troppo very well. Wow. Perché appunto, scrive il Corriere, lui tutto non è più quello che si affacciava nel vecchio continente con l'aria di chi non era stato mai invitato al tavolo, perché lui è troppo very well. E poi sempre sul Corriere della Sera ancora si legge che Renzi, tieniti. Sto seduto o sto anche in piedi? Anche tu Giovanni, tieniti. Sono qua. Siamo tutti e due seduti. Ha allacciato la cintura. Dice il Corriere della Sera, è il leader più votato in Europa. Troppo vero questo. Però quello mi sembrava vero. È il più votato. Oltretutto si trova premier senza passare dalle elezioni. Comunque, detto ciò, non più buffetti, dice il Corriere della Sera. Non più buffetti o sorrisi imbarazzati con Angela Merkel, ma solidi trattati ai quali la Germania non sfugge troppo per well. E poi dice sempre il Corriere della Sera che Merkel Hollande ha studiato a memoria. Perché non lo leggete questo Corriere della Sera? No. Merkel, Hollande e Cameron hanno capito di essere costretti ad avere a che fare con quel signor fiorentino pronto ad andare in Libia. Tripoli, petrol d'amore, mi giunga dolce questa mia canzone. Insomma, al Corriere non c'è scampo quando Renzi scende in campo. Ha mosso, dice il Corriere, tutte le pedine che poteva giocare sullo scacchiere internazionale. E quindi, dice il Corriere, che gliene frega di Bersani, che gliene frega di Bindi, che gliene frega di Speranza, dice sempre il Corriere della Sera, che gliene frega di Ecce, meglio avere a che fare con la Merkel. Poi, dice sempre il Corriere della Sera, altre domande e precisazioni sono superflue. Il programma del Premier è più che esplicativo. Se ci fossero state le meteorine, sarebbe stato tutto perfetto. Un trionfo d'Emilio Fede. Una canzone fa d'uopo. Eccola! Posso fare una svirgolettata rapida? È in forma, Posso fare una svirgolettata rapida? Ma hai visto che si sono accorti tutti che Fazio non fa le domande quando ha intervistato, si fa per dire, Berlusconi? Fazio intoccabile, lo so, ma non ha fatto le domande, se ne sono accorti. Piano piano. Ci arrivano. Vai con un'altra bolla. Vai. Bello, vai. È un pezzo incredibile, vabbè, smoke. È bellissimo. Poi Giovanni, oggi bisogna festeggiare. Dai, basta, il tuo compleanno. Allora, giapponesi staccano visti. Ragazzi, noi credevamo di averne viste di tutti i colori. In realtà, in Giappone c'è una cosa che si chiama karoshi, ed è il dramma di quelli che per troppo stress da lavoro si ammalano, muoiono, addirittura si suicidano. I suicidi legati a stress lavorativo in Giappone sono 2000 all'anno, anzi molti di più in realtà. Il governo e le imprese stanno prendendo i provvedimenti legislativi per obbligare i dipendenti delle imprese e dello Stato a prendersi le vacanze. Pazzesco. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, sms pubblicità. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. Mix 24. No, dai, per. Allora? Andiamo? Come sul labbro suo lo sdegno è bello, fra sprezzo ed ira, mai colpa di sangue tarda a tradirsi, ma più presto suole svelarsi amore se celarsi intende. Giorno pieno è la notte dell'amore. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ringrazio tutti quelli che mi hanno mandato degli SMS d'auguri. Piovono auguri. Ho letto delle cose. Vai. Forever vai, young. Vai. Senti qua. Voodoo Child. Li senti? Molto rapido, solo per dire che Twitter, parliamo di tecnologia, è un argomento che noi seguiamo con grande attenzione, soprattutto di tecnologia legata ai mercati. Twitter punta a Flipboard. Flipboard è un'applicazione che sostanzialmente consente agli utenti di leggere news e contenuti più vari. È un reader, diciamo così, molto bello. funziona molto bene anche come un giornale e valutazione. Cioè, in realtà io non ho capito cosa capita. Che integrano le attività. Integrano le attività. No, ma con questa applicazione. Con questa applicazione tu puoi sfogliare un giornale già adesso su smartphone, su tablet, sì, adesso anche sul web. Sì, ma è molto importante perché Flipboard è sempre stato legato in origine, a Twitter. Erano già due servizi che erano naturalmente integrabili, diciamo. Salamino! Il leader c'è, rivolgendosi al santo degli italiani, il più italiano dei santi, rivolgendo dunque una preghiera a Francesco d'Assisi, Silvio Berlusconi, Tullio Berlusconi, ha chiesto a Perugia ieri il miracolo, ha detto, fa, o santo caro, che quel miracolo del 2000 si ripeta, ma... In attesa del responso delle urne, sarà 4 a 3 o 5 a 2 che sia, una cosa Silvio l'ha risolta. Ha trovato l'erede, quello che cercavamo fino a ieri. È stato trovato. È successo che succede a se stesso e si fa successore. Il successore succeduto punta al 2018, come fa? È un po' complicato, però lui lo spiega. Perché in realtà l'interdizione e l'incandidabilità scadrebbero nel 2019. E nel 2018, invece, alla naturale scadenza della legislatura, si sarà già votato. Però lui l'ha risolto. Come? E perché sta succedendo a se stesso? Daniela Santanchè, e lo riferisce Balzac, cioè... nello pseudonimo di Carmelo Papa su Repubblica, la Santa Chè rassicura tutti perché c'è un ragionamento che fila. Lui resterà alla guida del partito, così come resterà proprietario del Milan. Allora, stasera andrà porta a porta da Bruno Vespa. Strano. Sì, cioè dopo Fabio Fazio va da Bruno Vespa, completa il suo giro, poi si è fatto fare un report da Alessandra Ghisleri, la sondaggista che insomma analizza. Dice? Il report è positivo, positivissimo. Guarda, Alessandra gli dice la verità. È positivo, positivo. È positivo. La Ghisleri ha fatto il sondaggio dove? C'è Salvini che fa il sorpasso su Forza non Italia. Non ci posso credere. Vabbè, senti. C'è qualcuno canzoniere che... Sono troppo difficili. Dagli un aiutino. Allora, dai, forza. C'è la notte. Sì. C'è il bardo. Insomma, aiuto più di questo che devo fare? Questi a forza vediamo, campano, come si chiama questo film di cui tutti parlano? Intanto dopo il giornale radio. Marina, che storia racconti oggi? Sì, Giovanni, sono passati 30 anni dalla tragedia dell'Heysel di Bruxelles e raccontiamo la cronaca di quella finale di Coppa dei Campioni, Liverpool-Juventus, dove, lo ricordiamo, hanno perso la vita 39 persone. E il nostro racconto lo facciamo con chi quel giorno allo stadio c'era, Marco Tardelli e Bruno Pizzul. Benissimo, dopo il giornale radio la storia drammatica dell'Heysel, sperando che la prossima finale invece sia una grande vittoria della Juve. Intanto, per finire, Per una lira, cantata da Giuliano Palma. Amico caro, se c'è qualcosa che...